Cari fratelli e sorelle, mentre mercoledì scorso ho parlato su un padre poco conosciuto in Occidente, Romanos il Melode, oggi vorrei presentare la figura di uno dei più grandi della storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente, il Papa San Gregorio Magno. Fu vescovo di Roma tra il 590 e il 604 e meritò dalla tradizione il titolo di Magnus, grande. E Gregorio fu veramente un grande papa, un grande dottore della Chiesa. Nacque a Roma intorno al 540 da una ricca famiglia patrizia della gens Anicia, che si distingueva non solo per la nobiltà del sangue, ma anche per l'attaccamento alla fede cristiana e per i servizi resi alla sede apostolica. Da tale famiglia erano usciti due papi, Felice III dal 483 al 92, Tris Avolo di Gregorio e Agapito 535 al 536. La casa in cui Gregorio crebbe sorgeva sul Clivus Scauri, circondata da solenni edifici che testimoniavano la grandezza della Roma antica e la forza spirituale del gran cristianesimo. Ad ispirargli alti sentimenti cristiani erano poi gli esempi dei genitori Cordiano e Silvia, ambedue venerati come santi, e quelle delle due zie paterne, Emiliana e Tarsilia, vissute nella propria casa quali vergini consacrate, in un cammino condiviso di preghiera e di ascesi. Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa che aveva seguito anche il padre, e nel 572 ne raggiunse il culmine divenendo prefetto della città. Questa mansione, complicata dalla tristezza dei tempi, gli consentì di applicarsi sul vasto raggio ad ogni genere di problemi amministrativi, traendone lumi per i futuri compiti. In particolare, gli rimase un profondo senso dell'ordine e della disciplina. Divenuto Papa, suggerirà ai vescovi di prendere a modello nella gestione degli affari ecclesiastici la diligenza e il rispetto delle leggi propri dei funzionari civili. Questa vita tuttavia non lo doveva soddisfare e non molto dopo decise di lasciare ogni carica civile per ritirarsi nella sua casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa della famiglia in monastero di Sant'Andrea al Celio. Di questo periodo della vita monastica, della vita nel dialogo permanente con la parola di Dio, col Signore, di questo periodo resterà una perenne nostalgia che sempre di più e sempre di nuovo appare nelle sue omelie. In mezzo alle assille delle preoccupazioni pastorali, lo ricorderà più volte nei suoi scritti come un tempo felice di raccoglimento in Dio, di dedizione alla preghiera, di serena immersione nello studio. Poté così acquisire quella profonda conoscenza della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa, di cui si servì poi nelle sue opere. Ma il ritiro claustrale di Gregorio non durò a lungo. La preziosa esperienza maturata nell'amministrazione civile in un periodo carico di gravi problemi, i rapporti avuti in questo ufficio con i bizantini, l'universale stima che si era acquistata, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e ad inviarlo a Costantinopoli quale suo apocrisiario, oggi si direbbe nunzio ambasciatore, per favorire il superamento degli ultimi strascichi della controversia monofisita e soprattutto per ottenere l'appoggio dell'imperatore nello sforzo di contenere la pressione longobarda. la permanenza a Costantinopoli, ove con un gruppo di monaci aveva ripreso la vita monastica, fu importantissima per Gregorio, poiché gli diede modo di acquisire diretta esperienza del mondo bizantino, come pure di accostare il problema dei Longobardi, che avrebbe poi messo a dura prova la sua abilità e la sua energia negli anni del pontificato. Dopo alcuni anni fu richiamato a Roma dal Papa, che lo nominò suo segretario. Erano anni difficili, le continue piocce, lo straripare dei fiumi, la carestia affliggevano molte zone d'Italia e la stessa Roma. Alla fine scoppiò anche la peste, che fece numerose vittime, tra le quali anche il Papa Pelagio II. Il clero, il popolo e il Senato furono unanimi nello scegliere quale successore sulla sede di Pietro proprio lui, Gregorio. Egli cercò di resistere, tentando anche la fuga, ma non ci fu nulla da fare, alla fine dovette cedere, era l'anno 590. Riconoscendo, in quanto era venuto, la volontà di Dio, il nuovo pontefice si mise subito con lena al lavoro. Fin dall'inizio rivelò una visione singolarmente lucida della realtà con cui doveva misurarsi, una straordinaria capacità di lavoro nell'affrontare gli affari tanto ecclesiastici quanto civili, un costante equilibrio nelle decisioni, anche coraggiose, che l'ufficio gli imponeva. Si conserva del suo governo un'ampia documentazione grazie al registro delle sue lettere, ci sono 800 circa, nelle quali si riflette il quotidiano confronto con i complessi interrogativi che affluivano sul suo tavolo. Erano questioni che gli venivano dai vescovi, dagli abati, dai clerici e anche dalle autorità civili di ogni ordine e grado. Tra i problemi che affliggevano in quel tempo l'Italia e Roma ve n'era uno di particolare rilievo in ambito sia civile che ecclesiale, la questione longobarda. Ad essa il Papa dedicò ogni energia possibile in vista di una soluzione veramente pacificatrice. A differenza dell'imperatore bizantino, che partiva dal presupposto che i longobardi fossero soltanto individui rozzi e predatori da sconfiggere o da sterminare, San Gregorio vedeva questa gente con gli occhi del buon pastore, preoccupato di annunciare a loro la parola di salvezza, stabilendo con essi rapporti di fraternità in vista di una futura pace fondata sul rispetto reciproco e sulla serena convivenza tra italiani, imperiali e longobardi. Si preoccupò della conversione dei giovani popoli e del nuovo assetto civile dell'Europa. I visigoti della Spagna, i franchi, gli anglosassoni, immigrati in Britannia e i longobardi furono i destinatori privilegiati della sua missione evangelizzatrice. Abbiamo celebrato ieri la festa di Sant'Agostino di Canterbury, uno dei suoi monaci, che è un gruppo di monaci incaricato da Gregorio, è andato in Britannia e ha evangelizzato l'Inghilterra. Per ottenere una pace effettiva a Roma e in Italia, il Papa si impegnò a fondo, era un vero pacificatore, intraprendendo una serrata trattativa con il re longobardo Agilulfo. Questa negoziazione portò ad un periodo di tregua che durò per circa 3 anni, 598 a 601, dopo i quali fu possibile stipulare nel 603 un più stabile armistizio. Questo risultato positivo fu reso possibile anche grazie ai paralleli contatti che nel frattempo il Papa intratteneva con la regina Teodelinda, che era una principessa bavarese, e mentre gli altri popoli germanici era cattolica, profondamente cattolica, e abbiamo una serie di lettere del Papa scritte a questa regina che dimostrano la sua stima, la sua amicizia, e questa regina è riuscita a guidare man mano il re al cattolicesimo e così di preparare la pace. Il Papa gli ha donato per la Basilica a Monza espressioni di auguri e preziosi doni in occasione della nascita e del battesimo del figlio Adaloaldo, e mi sembra questa regina dimostra anche un bel capitolo della importanza delle donne nella storia della Chiesa. In fondo, gli obiettivi sui quali Gregorio puntò costantemente furono tre: contenere l'espansione dei Longobardi in Italia, sottrarre la regina Teodolinda all'influsso degli sismatici e rafforzarne la fede cattolica, mediare tra Longobardi e Bizantini in vista di un accordo che garantisse la pace nella penisola e in pari tempo consentisse di svolgere un'azione evangelizzatrice tra i Longobardi stessi. Duplice fu quindi il suo costante orientamento: promuovere intese sul piano diplomatico-politico e diffondere l'annuncio della vera fede tra le popolazioni. Accanto all'azione meramente spirituale e pastorale, Papa Gregorio si rese attivo protagonista anche di una multiforme attività sociale, con le rendite del cospicuo patrimonio che la sede romana possedeva in Italia, specialmente in Sicilia, comprò e distribuì grano, soccorsi chi era nel bisogno, aiutò sacerdoti, monache e monache che vivevano nell'indigenza, pagò riscatti di cittadini caduti prigionieri dei Longobardi, comprò armistizi e tregue. Inoltre, svolse sia a Roma che in altre parti d'Italia un'attenta opera di riordino amministrativo, impartendo precise istruzioni affinché il bene della Chiesa, utile alla sua sussistenza e alla opera evangelizzatrice nel mondo, fossero gestiti con assoluta rettitudine e secondo le regole della giustizia e della misericordia. Esigeva che i coloni fossero protetti dalle prevaricazioni dei concessionari delle terre di proprietà della Chiesa e in caso di frode fossero prontamente risarciti affinché non fosse inquinato con profitti disonesti il volto della sposa di Cristo. Questa intensa attività di Gregorio la svolse nonostante la malferma salute che lo costringeva spesso a restare a letto per lunghi giorni. I digiuni praticati durante gli anni della vita monastica gli avevano procurato seri disturbi all'apparato digerente. Inoltre la sua voce era molto debole, così che era costretto di far leggere le sue omelie da un diacono, perché non poteva farsi sentire nelle basiliche romane. Grazie a Dio abbiamo oggi a disposizione il microfono. Faceva comunque il possibile per celebrare nei giorni di festa Missarum Solemnia, e allora incontrava personalmente il popolo di Dio, che gli era molto affezionato perché vedeva in lui il riferimento autorevole a cui attingere sicurezza. Non a caso gli viene ben presto attribuito il titolo di Consule di Dio. Nonostante le condizioni difficilissime in cui si trovò ad operare, riuscì a conquistarsi, grazie alla santità della vita e alla ricca umanità, la fiducia dei fedeli, conseguendo per il suo tempo e per il futuro risultati veramente grandiosi. Era un uomo immerso in Dio, parla spesso del desiderio di Dio, si può vedere che il desiderio di Dio era sempre vivo nel fondo della sua anima e proprio perciò era sempre anche vicino al prossimo, a tutti i bisogni della gente del suo tempo. Lui realmente in un tempo disastroso, anzi disperato, ha saputo creare pace e dare speranza. Questo uomo di Dio quindi ci mostra dove sono le vere sorgenti della pace, da dove viene la vera speranza, e così è una guida anche per noi del nostro tempo di oggi. Grazie.